bruciato alle sillabe, la lingua di lince urlerà delle sue lacrime nere, amaramente scormentate. Le mie narici vedranno il suo respiro bruciare come un rogo. Il mio unico e nobile cuore a testimoni in tutti i luoghi d'amore che andranno svegli e attentoni. E quando il cieco sonno cadrà sui sensi che spiano, il cuore sarà sensuale. E siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, riprende la seconda parte della trasmissione di stasera. Ricordiamo ancora Trilogia, che si completa con questa terza parte iniziata appunto due puntate fa. Oggi è la terza che chiude questo percorso che abbiamo cercato, abbiamo abbozzato, abbiamo frammentato come filo rosso del periodo che riguarda la musica sperimentale italiana negli anni Ottanta. La prima parte l'abbiamo costituita con la trasmissione dedicata alla wave italiana, in parte anche all'industrial, gli esperimenti italiani negli 80, invece stasera Italia Avant, mentre la scorsa trasmissione dedicata con il titolo Gli aria se ne vanno e gli arrebati restano, sempre legata appunto alla musica sperimentale italiana degli anni 80. E stasera abbiamo iniziato il nostro percorso, abbiamo aperto con grande Franco Battiato, almeno il grande nel periodo sperimentale, sì, prima che scomparisse definitivamente, poi seguito da un altro gioiello, Musci e Venosta, che costituiscono appunto un progetto molto interessante della metà degli anni 80. Poi siamo passati verso i Monophonic Orchestra per arrivare a Fausto, che ha chiuso in parte la prima parte, dato che abbiamo dovuto in parte sfumare per l'attacco del GR di Radio Popolare. L'abbiamo fatto ripartire adesso insieme a un altro brano che avete appena ascoltato, questa fantastica realizzazione costruita appunto in chiusura di questo splendido album di Fausto, in arte Fausto, ma in realtà musicista e autore di nome Fausto Rossi, che ha avuto un certo seguito alla fine degli anni 70 e inizio anni 80. Doveva essere lanciato un po' come una sorta di nuova icona del pop, anche per la sua grande versatilità e il suo genio pazzo dei primi dischi, dove si risentiva inizialmente un grosso influsso di un certo jazz rock ed anche di un certo inizio del punk italiano, sì, che abbiamo ascoltato nella scorsa trasmissione. Infatti wave, no wave, poi nei dischi successivi si sposta sempre di più verso versanti sia legate alla wave inglese che alla no wave americana, con delle grosse capacità compositive, con delle soluzioni anche musicali abbastanza inedite e spiazzanti, per poi arrivare fino al 1980, il trittico dei suoi tre dischi, i primi dischi, arrivare poi nell'82 a far uscire questo inedito Fausto, abbastanza sorprendente per coloro che lo stavano seguendo, un disco autoprodotto, interamente autoprodotto, e questo fa molto pensare, perché dietro i primi lavori di Fausto e anche il successivo, che è un disco omonimo uscito nell'83, ebbe delle produzioni anche di major abbastanza importanti, mentre su questo chiaramente lui ha voluto portare avanti una sorta di sperimentazione, quasi forse anche una chiusura, no, di un periodo storico che lo ha comunque riguardato, che è stato comunque quello della fine degli anni 70, e crea questo capolavoro assoluto Out Now, appunto un disco che abbiamo ascoltato adesso con due brani anche molto differenti fra loro. Un primo brano molto aperto, con dei nastri, delle musiche portate al contrario, dei suoni in sottofondo, e anche il suo parlato estremamente avvolgente e anche profondo, con delle parti realmente poetiche dei testi che lui ha sempre molto evidenziato, su cui ha sempre molto lavorato con grande originalità. E poi questo brano che spiazza totalmente, l'ultimo brano del disco che abbiamo appena ascoltato, questo incrocio di fiati e di sax che costruiscono una sorta di fiume in piena minimalista, con una base però ritmica che anche questa spiazza, una batteria elettronica con un ritmo ossessivo che ritroviamo nel corso del disco, che è veramente quasi indefinibile per la sua ricerca sonora, per la sua sperimentazione. Si passa veramente dal minimalismo alla contemporanea, alla wave più radicale, all'industrial. C'è un brano pienamente industriale con una ritmica ossessiva e metallica nel disco, per arrivare addirittura a delle forme appunto di jazz contaminato alla contemporanea, spiazzante totalmente, per dimostrare anche la genialità e la ricerca sonora che già avevamo intravisto nei dischi più tra virgolette pop o rock dello stesso Fausto, ma che qui esplode totalmente in una forma appunto di poesia musicale assolutamente originale. E da Fausto, che abbiamo voluto portare appunto come apripista per la seconda parte, arriviamo a un'altra formazione importantissima della scena anni 80 che abbiamo ritrovato e che vogliamo appunto inserire all'interno di questo percorso di stasera. Sì, dentro Italia Avant sicuramente, la 19 9 alle 19 non possono mancare. Poi in realtà qualche dimenticanza, ma d'altronde lavorando su frammenti non si può fare altrimenti, c'è stata in questa trilogia. Poi molte cose sono state già trattate, bisognerebbe citare ad esempio Crisma, bisognerebbe citare Di Schianto, se comunque abbiamo così evocato anche nelle scorse trasmissioni, tante altre situazioni molto molto interessanti, anche del pop trasversale che poi è diventato anche molto commerciale. Se pensiamo che Fausto stava per diventare, hanno tentato di farlo diventare una sorta di Enrico Ruggeri, sì. Ci dà da pensare però a come fosse poi Enrico Ruggeri all'inizio, che non era esattamente quello di Mistero, insomma, no? O di Misteri, adesso non fa di Misteri, sì, della fede. E dentro una situazione che comunque si voleva particolare, queste tre trasmissioni, insomma, ci stiamo sforzando e speriamo, insomma, di far passare questo messaggio. D'altronde le musiche già informano su questo stato quasi di disarticolazione per certi versi, rispetto invece a una compattezza negli anni 70 ancora piuttosto radicale dentro ad esempio la Cramps, ma non solo, anche dentro certo prog più consapevole, più sperimentale, o certo anche abbandono, come dire, di utopie che diventano distopie, cioè utopie portate al grado zero o al grado negativo, quindi andando a creare appunto scenari fantascientifici però postumani. Abbiamo sentito tante cose di questo tipo appunto in queste trasmissioni, tipo Maurizio Bianchi, tanto per citare, forse uno degli estremi in questo senso, di postumanità, di macchina che divora tutto. La 19 la 19 con Piero Chianura e Luciano Margorani lavorano sia in termini di costruzione e quindi ricostruzione di un suono smarrito, un suono smarrito che quindi ci riporta a quegli anni 70 così compatti, in effetti poi furono anche così in maniera molto superficiale considerati neoprog. In realtà la 19 e la 19 la dicono lunga su le loro esperienze musicali, soprattutto legate alla Rare, anch'essa come Venosta prima, che abbiamo sentito, ascoltato, portano appunto un discorso su quello che è la sperimentazione europea, mitteleuropea in particolar modo, della Recommended Record di Chris Clutter, quindi mischiando elettroniche, situazioni cabarettistiche, follie anch'esse prese da certa America residenziana, e un suono che comunque si crea veramente di mille colori, di mille attitudini, che vanno anche a cercare una sorta di patafisica. La 19 la 19 così sperimenta quindi questo lungo percorso che arriva fino ai nostri giorni, tra l'altro con personaggi come Eric Kaiser, John Oswald e lo stesso Fausto negli anni 90. Avremo modo comunque magari sicuramente, di sentirlo, sicuramente. Chissà. Shut up. regione arrivata fino all'ore. Caldo, caldo tropicale, a giudicare dalle rovine di Bahia Blanca, in mezzo alla pianura interminabile cerco il Brasile. Vorrei dormire tra due guanciali in una stanza chiusa come la centrale della NASA, foto di Saturno e di Alfa Centauri, la galassia sombrerà tra pavoni e le rose. Try to do a little tune for you. And I recorded for Norman Granz, Clef Records. My tune is titled Lady Sings the Blues. I do hope you like it. Magazzini criminali, per continuare poi un percorso che è aperto anche la prima parte appunto della trilogia dedicata agli esperimenti italiani, dove appunto erano protagonisti anche magazzini criminali più sul versante wave. Seppur avete sentito, la sperimentazione è piuttosto ricca dentro le produzioni di magazzini criminali che stampavano con Italian Record, ma non solo, perché la faccenda poi di magazzini criminali, partendo dal Carrozzone, quindi dalla fine degli anni 70, e poi trasformandoli in magazzini appunto criminali, ci racconta di un percorso molto lungo dentro la body art, dentro comunque una sperimentazione anche teatrale piuttosto ricca della progettualità di Federico Tiezzi, soprattutto che si occupa di regia, ma non soltanto di regia del suono con magazzini criminali, ma già nel Carrozzone si occupava della regia appunto spettacolare, una sorta anche di happening, e quindi tutto un discorso delle nuove avanguardie che attraversa questa progettualità assolutamente straordinaria, anche per quanto riguarda un percorso decisamente maturo anche in termini musicali. Se tante sono state anche le esperienze della fine degli anni 70 e anni 80 sul versante appunto artistico o musicale, difficilmente si sono sintetizzate come in Magazzini Criminali, che con due dischi veramente eccezionali ci raccontano appunto di una possibilità collagistica che va a inventare una materia sonora, anche una materia visiva poi sperimentata appunto sui palchi d'Italia e non solo, e che col collage creano situazioni veramente decisamente nuove e creative. Abbiamo sentito Billie Holiday, Antonin Artaud mischiato a un Davis che esplode in un momento particolarmente ricco del pezzo, da secondo loro trovato appunto dentro la Riviera Records, quindi non soltanto Italian Records, Tangeri 400 km nord. C'era sempre questa poi dimensione geografica anche nel primo disco di Magazzini Criminali. Questo è Notti senza fine, invece Crollo Nervoso era il primo di un anno prima, anzi due anni prima, 81, e questo invece 83, Notti senza fine. Bene, da Magazzini Criminali Music. Sì, perché hanno cambiato poi, no? Prima era Magazzini Criminali, poi è diventato Magazzini Criminali Music, ma era anche un loro modo di costruire una sorta di collage, di modificazione anche dei progetti, dei nomi, dei titoli. Era appunto un'attitudine, una ricerca sperimentale sui testi e sulle musiche, nonché del teatro, insomma. Dunque è un progetto che ci ha coinvolto molto e molto interessante, che oltretutto ha continuato a portare avanti come Magazzini Criminali, tant'è che è nata anche una sorta di gruppo, di collettivo che lavora tuttora a Sassuolo e organizza a Sassuolo. E organizza mostre, installazioni, anche happening teatrali. Dunque un percorso estremamente aperto a 360 gradi sul piano della creatività artistica. E Magazzini Criminali lo agganciamo un po' in maniera anche abbastanza particolare, ma un po' è anche la caratteristica della trasmissione di stasera. Stiamo spaziando moltissimo dentro questo universo d'avanguardia degli anni Ottanta, che era molto composito, era molto frammentato. Effettivamente, come dicevi giustamente tu prima, non esiste quel blocco politico, culturale che aveva caratterizzato gli anni 60-70, c'è tutta una sorta di frantumazione che sappiamo anche bene da dove arriva, e una frantumazione che ha prodotto appunto questa sorta di mille pezzi, di mille granelli che si sono poi in parte ricomposti, in parte hanno portato avanti altri progetti e in parte si sono dispersi e dentro questo percorso anni 80 abbiamo pescato un personaggio che esce dall'ambito più strettamente accademico e tra virgolette connesso anche a una certa musica classica e contemporanea, e parliamo di Piero Milesi, musicista nato a Milano nel 1953. Ha iniziato a comporre e a portare avanti le sue opere dalla fine degli anni 70, e in particolar modo le opere Modi 1 e Modi 2, che poi andremo proprio ad ascoltare, e ha iniziato anche a portare avanti collaborazioni con progetti filmici, dunque colonne sonore per film, per teatro e anche sigle televisive, un po' di tutto, un po' di più. E nel periodo diciamo più ricco della propria composizione musicale, quella appunto iniziale della fine 70 inizio 80, realizza questa opera molto molto interessante, Modi numero 2, anche in Modo numero 1 precedente del 79, a Modi numero 2 dell'80, riesce a portare avanti il suo progetto, che attinge ovviamente alle matrici più squisitamente minimaliste, da cui deriva anche dal punto di vista degli ascolti, della propria formazione musicale, per portare avanti appunto ma anche un progetto minimalista, però molto contaminato da elementi folk e etnici, ma in maniera assolutamente non patinata e neanche con quella rivisitazione che spesso ritroviamo in maniera anche un pochettino naif o forse anche un po' verso la new age di certe musiche di altre terre, dall'occidente per interpretare l'oriente o altri mondi. C'è un aspetto estremamente interessato e soprattutto rispettoso rispetto Ah, è bello, creativo, è creativo, bello questo rispettoso rispetto, sì. È bellissimo sto gioco, appunto, concernente le culture e lo sviluppo di certi linguaggi musicali altri rispetto a quelli occidentali. C'è da dire poi che molti di questi artisti che stiamo mettendo questa sera hanno dovuto poi sopravvivere, anche questo è un punto molto importante, e rispetto appunto a una commercializzazione piuttosto profonda che attraversava quegli anni, ricordiamoci insomma Pippo Baudo Docet, sì, Insegna con i suoi Sanremo, e quello che era appunto il Festival Bar, tutte cose che comunque appunto appiattirono il discorso musicale, e quindi molti artisti che anche questa sera stiamo passando si dovettero inventare una sorta di mestiere, di professionalità quasi parallela, quasi disgiunta da quella che erano invece operazioni, opere artistiche, e quindi molte musiche legate appunto a spot pubblicitari, arrangiamenti, artisti molto molto discutibili che hanno portato appunto anche collaborazioni tra virgolette, perché ben poco poi collaborative con artisti appunto che veramente c'entrano poco con la sperimentazione, ma forse c'entrano anche poco con la musica poi a ben vedere, vabbè, senza fare nomi, perché con Milesi uscirebbe anche un nome piuttosto inquietante. Un po' inquietante, anche se lasciamo tante di queste parti, ricordiamo De André perché ha lavorato sulle musiche di due veri e propri capolavori, Le Nuvole e Anime Salve, per De André. Però è un altro discorso. Ecco, una cosa che interessante da dire, poi andiamo ad ascoltarlo perché è veramente un viaggio, un flusso minimalista molto molto bello, è che lo stesso Milesi, diplomato in conservatorio e compositore, successivamente consegue addirittura la laurea in architettura su una tesi sul rapporto tra spazio e suono. Questo fa ben pensare la ricerca anche di questo autore rispetto anche a un elemento che spesso noi affrontiamo in 451 frammenti e che esploderà soprattutto negli anni 90 in termini più diretti, più conosciuti, più popular. Bene, andiamoci a sentire dunque Piero Milesi con Modi numero 2, 1980. Thank you. Thank you. Bene, ascoltato buona parte di Milesi da un disco decisamente importante. Era un po' in cantina, causa mia. Era un po' in cantina, va bene. Ma comunque Milesi era tutt'altro che in cantina, con queste arie decisamente evocative, anche volendo per molti aspetti dense di quella di quel fare italiano decisamente melodioso, se richiami a Reich e soprattutto a un certo Glass, soprattutto Glass proprio di quel periodo di passaggio, quello che poi sarà il Glass conosciutissimo, veramente artista pop delle colonne sonore. Con Milesi si trasforma, se vogliamo, in un qualcosa anche di particolarmente italiano, proprio per questo suo senso ancor più forte che in Glass, chiave melodica, in accessibilità, se vogliamo, non melodrammatica come è decadente soprattutto nelle opere decisive, diciamo, del cambio di Glass degli anni 80. Milesi poi in realtà continuerà nella sua progettualità, anche non abbandonando quel percorso, insomma, sperimentali, anche se appunto addolciti e con una certa dialettica anche nel senso dell'ascolto più diretto verso un pubblico più vasto, insomma una sorta di papà anche di quelli che saranno sì un post minimalisti anche qua in Italia, che accompagneranno un po' quel percorso particolare che poi dopo tanti ascolti e anche a riflettere bene ci informano anche su una scuola, forse, se non proprio tale, comunque di una scena minimalista tutta italiana, che può partire da certe cose appunto legate alla Cramps o cose che abbiamo passato che erano più o meno collegate ad ambienti sì, della scuola milanese, dell'etichetta appunto Cramps, e certo Battiato che abbiamo ascoltato prima, ad esempio L'Egitto prima delle sabbie, disco importante anche in questo senso, e poi appunto un discorso che ci porterà fino ai nostri giorni, che affonda le sue radici appunto negli anni 70, proprio quando ha iniziato a lavorare il nostro Milesi, che lascia la palla. La palla a due personaggi che muovono e si muovono nella scena contemporanea italiana e che nella fine degli anni 70, intorno al 1979, iniziano a collaborare col progetto della nostra amata, amatissima Cramps, realizzando un disco apposito ad hoc per l'etichetta nel 1980, tra il 79 e l'80. Si tratta di due autori assolutamente importanti sulla scena della contemporanea, anche se non conosciutissimi, Daniele Fedigotti e Danilo Lorenzini, con il disco I Fiori del Sole. Un disco molto particolare che si muove su territori legati, diciamo, alle tastiere, nell'ottica proprio più ampia del termine, da suoni appunto elettronici tastieristici a organi, fino ad arrivare a delle parti pianistiche molto particolari, dove il suono e anche l'aspetto minimale del suono e delle composizioni emerge. La cosa interessante che andremo proprio ad ascoltare adesso con quattro frammenti di questo disco è che c'è anche una fortissima attenzione a livello del suono, dunque il timbro del pianoforte, delle linee del pianoforte che costruiscono i due autori creano appunto delle sorte di armoniche, dei suoni quasi ad eco che costruiscono armonie su armonie. Ovviamente sono percettibili su impianti di un certo tipo, certe dissonanze, certe armoniche, non, dalla radio probabilmente qualcosa si perde, ecco, in termini di frequenza, ma sicuramente, come la Cramps ha sempre cercato di concentrarsi sull'attenzione, sull'aspetto sonoro, è importante delineare questo aspetto, anche perché all'interno della collana Nova Musica, che è una delle collane che la stessa Cramps ha utilizzato per la scena sperimentale, più volte abbiamo inserito da questa collana vari autori e vari dischi importanti all'interno di 451, è anche un disco portante perché è uno degli ultimissimi dischi prodotti dalla Cramps anche come etichetta nuova musica, come filone all'interno della stessa progettualità discografica. E da loro vogliamo dare una sorta di omaggio, insomma, anche al periodo precedente e una sorta di ponte anche verso quello che poi saranno gli anni 80, che abbiamo affrontato stasera in varie frammentazioni, abbiamo anche affrontato nelle altre due puntate di questa trilogia dedicata agli anni 80. Andiamoci dunque a sentire quattro frammenti, appunto, di Daniele Ferdigotti e Danilo Lorenzini, dai Fiori del Sole, Cramps, 1980. Thank you. Bellissimo questo finale che chiude proprio l'intero album, e ho inserito infatti quattro frammenti, quelli conclusivi dell'intero album, costruito da questi due autori, Freddy Gotti e Lorenzini, per la Cramps Record, I Fiori del Sole, lo ricordiamo ancora. Queste anche sorta di ballate da parte di questi due autori, che vengono a costruire un suono e un'armonia che ricorda sicuramente certe atmosfere, certe dimensioni appunto del passato, però riportate in un'ottica quasi futurista, nel suono, nella costruzione, nei tempi, nelle pause anche che tendono a costruire gli stessi. Li sentiamo ancora in sottofondo con dei brani molto più legati all'organo, dei suoni molto più aperti e anche strani, con dei synth, delle cose che aprono, no? Molto verso gli anni 80 poi. Sì, anche se c'è questo recupero quasi medievale. Sì, no? sì, ballate medievali, un richiamo appunto al passato in quel senso. E da due autori della Cramps andiamo a trovare un grande maestro della musica contemporanea, sì, italiana. Probabilmente negli anni 80 figura di riferimento per quanto riguarda la contemporanea, probabilmente uno degli autori tra virgolette di maggior successo per quanto riguarda le nostre musiche appunto classiche e contemporanee, Salvatore Sciarrino, palermitano, che ha una storia veramente particolare, perché è un autodidatta, quindi entrare poi nel mondo accademico, soprattutto quello italiano, perché c'è una faccendina che rende anche difficile poi, tra l'altro, e qua lo diciamo, insomma, non siamo a Rai Stereo 3, quindi c'è una certa difficoltà anche a presentare certi personaggi, ma non tanto perché poi siano così sfuggenti o siano così alti da appunto non poter essere divulgati o diffusi appunto in termini di materiale sonoro e anche di spiegazione così per quanto frammentari, quindi anche radiofonica in questo caso appunto della nostra trasmissione, ma proprio perché c'è una certa aurea quasi di intoccabilità dentro le accademie italiane, che sono state anche come dire molotovizzate per tanti anni, appunto prese a Molotov da artisti che magari uscivano dalla stessa accademia. Lo stesso Luciano Berio tante volte finiva i concerti a pugno chiuso, chiaramente con riferimenti più alla strada, nel 68 registrazioni appunto prese dalle contestazioni proprio di quei mesi, Morricone, che è diventata una sorta di figura insomma sommaria appunto di tutto quello che è accademico, seppur in salsa anche nazional popolare per molti versi, seppur con le particolarità appunto del grande compositore romano, e altri personaggi come Bruno Maderna, che hanno questa appunto quasi sorta di intoccabilità, tant'è che quando, lo ripetiamo spesso, morì poco tempo fa, poi tra l'altro Luciano Berio, ci fu appunto questa solennità anche del Senato, quindi non soltanto, anzi non del Parlamento, ma addirittura del Senato, per la morte di Luciano Berio, e poi appunto un feedback che non ha funzionato assolutamente, ma non si è voluto far funzionare in termini di popolarità, cosa che invece accade nella buona parte del nord Europa, perché poi anche Europa non significa niente, nord Europa, dove i compositori poi intervengono a trasmissioni anche come appunto l'abbiamo citata prima, una trasmissione mitica degli anni 80, Domenica in, sì, oppure Stockhausen interveniva appunto, ma quelle erano già forme insomma di televisione sperimentale, assurda adesso nei nostri tempi, dove comunque per quanto si voglia insomma dire di essere popolari, poi è ben staccato il canale tematico a pagamento dove c'è la musica colta, e questo ci dice anche di come sia appunto difficile non soltanto insomma presentare, ma presentarsi anche di fronte a certe musiche che poi in realtà hanno veramente una fascinazione e un ascolto non poi così difficile, girando poi su internet, navigando appunto su internet, si trovano insomma anche cose abbastanza curiose, sembra quasi che appunto ci sia, come dire, l'intoccabilità e la santità verso certe cose, e con questo discorso che potrebbe essere anche decisamente insomma fuorviante, in realtà non lo è, perché appunto andando a trovare Salvatore Sciarrino con le sue piano sonatas, in particolar modo la 2, la seconda dell'83, ci andiamo a fare poi in un suono che ci racconta appunto di un Sciarrino autodidatta, di uno Sciarrino che si è formato da solo e che ha una comunicazione del tutto particolare, come tra l'altro anche in termini esecutivi, ma dopo vi diremo altre cose, anche perché Eliseo si preoccupa qua, guarda che sei lungo pure tu, quindi non... Cosa, no? Mi indichi cosa vuoi? L'opera che andiamo a sentire, sì. Ho già detto, è Sonatas seconda, 1983. Vabbè. Salvatore Sciarrino dal piano Sonatas, in questo caso il secondo piano Sonatas, e come spesso accade nelle opere di Sciarrino, i suoni intonati, gli intervalli, che poi sono elementi fondanti dell'armonia, del contrappunto, così faccio un po' anche il colto, no? Sono bravo. Quasi sempre, grazie, bravo, bravo. Sono quasi sempre trascurati e trascurabili, perché è data grande importanza a quello che è l'effetto sonoro poi dell'opera, in questo caso appunto del nostro Sciarrino. Addirittura in alcune opere si sente la salivazione quasi, ad esempio nella sua opera Lohengrin, la salivazione proprio sugli strumenti a fiato, per dare appunto quell'effetto appunto di vivacità, di vita dentro lo strumento, quindi c'è questo tentativo di andare oltre appunto la stessa strumentazione e dargli quell'aspetto fisico che magari molte musiche contemporanee potrebbero sembrare avulse da questo. In realtà poi in Sciarrino c'è anche questa possibilità ulteriore data appunto dalle sue musiche. Adesso ci spieghi perché ridi, caro mio. No, non sto ridendo, no, ti sembra, cosa ti sembra, perché c'è un riflesso del vetro, ma non rido. In realtà è un poster. Quello, è un poster. Un tuo poster. che rido. È il riflesso, ma che mi metto di fronte perché voglio vedermi quando ero felice, insomma. Quando eri felice? Da tanti anni che non sei felice. Dal 72. Dal 72, sì, praticamente. Anno della prima opera di Sciarrino. Di Sciarrino, bravo, infatti. Amore e psiche. Tu. E mi ricordo quell'opera. Te la ricordo. Perché sì. Ero appena nato e mi ricordo che c'era proprio una discussione a casa su Amore e psiche, la prima opera di sì. Sciarrino. Non avete dormito tutta la notte? Io soprattutto sì, perché questi continuavano a parlare, io ero appena nato, dunque avevo bisogno di dormire. Però mi ricordo anche un periodo dove stavo abbastanza vivace, vivo, abbastanza. Ed era nel 79. Nel 79. E infatti Sciarrino aveva composto Che sai, guardiano della notte, punto di domanda. E tu ti sentivi guardiano della notte? Mi sentivo cioè, un po', all'epoca, sei anche del faro. No, vabbè, però mancava il faro perché nella mia zona non c'era il mare. Dunque, ti dovevi spostare. Mi ero fatto un piccolo faro. Sì, il faro a casa di fatto, per non perdersi. Sì, per non perdermi, anche per dare un segnale al mondo. Io uscivo anche fuori il faro. Sì, sì, sono stati anni insomma, importanti. I marinai. Sì, sì, sì. Sì, insomma, sì. Era il punto di riferimento. Sì. Sì. Sì, direi che tutto questo serve molto ai radioascoltatori, anche per chiudere in maniera adatta la trasmissione con Sciarrino. Sì, proprio una trilogia sugli esperimenti italiani negli anni 80. Ci sentiamo più devastati di loro proprio in quel periodo. È vero, l'effetto finale è la devastazione. Sì. Ho avuto questa trasmissione che secondo me riesce bene a inquadrare tutta la frantumazione, la deflagrazione finale, forse i cocci, proprio gli ultimi residui bellici, e anche noi ci sentiamo un po' così. Un po' frammenti. Un po' frammentati. Un po' di noi stessi. Bravo. Frammenti di una guerra che bravo. È avvenuta, poi in realtà ci sono state appunto delle conseguenze che ancora forse paghiamo, chissà. Va bene, a bravo parte questo, se, bello questa chiusura. Però anche tu, cioè nel tuo piccolo c'è il faro, insomma. No, che potevi anche tu incidere, perché comunque negli anni 70 eri piccolo, però piccolissimo, però potevi fare ma perché qualcosa. Parlavano i miei spesso anche loro di amore e psiche, quindi ah, sì. non si riusciva a uscirne. Un'altra vita. Ci vuole un'altra vita. Ci vuole un'altra vita. Come cantava Franco. Franco, stop. Franco, no, quella è un'altra storia. Va bene, dai, va bene, ok. Sei contento? Sì. Buonanotte allora. Sì, da un po' non si dice. Buonanotte, cari. Ovviamente se volete andare a visionare, a contattare anche in particolar modo Max, potete andare sul sito, anzi sul blog 451frammentisonori.noblogs.org, potete anche salutare attraverso l'email, la casella di posta, anche il nostro bellissimo ideatore, distruttore, come detonatore Lorenzo Albano, che è anche un bel ragazzo. Dunque, Basta. Su Lorenzo Albano possiamo chiudere, insomma. Sì, su di te però aprirei l'apriamo mondi impossibili, guarda. Da mondi lontanissimi a mondi impossibili. Ti ringrazio, caro. Ciao Eliseo Scarpa. Ci sentiamo domenica prossima, non si sa, qua dipende dalla malattia, dallo stato della malattia. Ma insomma dipende da tante cose, anche Davide Mosconi, ti ricordi il disco, cos'era il paradiso di ascesa? Vabbè dai, ne parliamo poi in macchina, quando hai finito di bere. Ciao.